America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Well, S&P has put 15 euro nations on review for possible downgrade. Today's avrete già sentito questo annuncio. Standard & Poor's ha dato un annuncio, l'aver messo su outlook negativo 15 paesi europei, tra cui Francia e Germania. La notizia in altri tempi avrebbe destato preoccupazioni, devo dire, oggi non emoziona più di tanto. Un po' sappiamo che Standard & Poor's va avanti per la sua strada. Certo, colpisce che nel momento in cui i mercati trovano una loro sicurezza, nel momento in cui comincia a prendere corpo e forma un progetto per stabilizzare l'euro e l'eurozona, all'improvviso Standard & Poor's dà un messaggio negativo, un messaggio contrario a quelle che sono le aspettative del mercato. Beh, dobbiamo interpretarlo, dobbiamo leggerlo questo messaggio. Standard & Poor's non fa altro che porre l'accento sul fatto che se le cose in Europa non si metteranno a posto, e oggi formalmente non lo sono, anche Francia e Germania ne soffriranno. Mi risulta, per aver parlato con degli alti funzionari monetari europei, che in realtà la Merkel ha già deciso, la Merkel è pronta a fare quel passo che finora non ha voluto fare e a dare una luce verde per una nuova architettura sul piano europeo che consentirà da una parte alla banca centrale di diventare uno sportello di ultima istanza, diciamo non soltanto per le banche, perché per quello in qualche modo lo era già, ma anche per poter intervenire sul mercato dei bond governativi. Anche per questo le indiscrezioni che circolavano ben prima dell'annuncio formale di Standard & Poor's non hanno poi mosso il mercato, un mercato che è andato molto bene, in Italia è andato molto bene, abbiamo visto anche una riduzione degli spread con il Bund tedesco al di sotto di 400 punti, abbiamo visto il Dow Jones chiudere a più 0,65%, dunque il quadro di ieri restava un quadro positivo. Oggi arriva Geithner in Europa. The leaders of Europe have done the essential necessary thing and they've made it clear they will do what is necessary, not just to hold the euro together, defend the euro, but to make sure that these reform programs are able to work. Tim Geithner che incoraggia l'Europa a trasformare in azione i buoni propositi dell'incontro del 26 di ottobre. Prima tappa, una tappa alla Banca Centrale Europea, un incontro con Mario Draghi. Vorrei aprire anche qui una piccola parentesi. Mario Draghi e Tim Geithner si conoscono abbastanza bene, si conoscono dai tempi in cui Geithner era la Federal Reserve Bank of New York, i due hanno lavorato insieme molto da vicino, dunque non è un primo incontro, ma è un rivedersi, sapendo peraltro di essere sulla stessa lunghezza d'onda, perché Draghi, pur avendo le mani legate sotto molti punti di vista, la pensa come la pensano gli americani, e cioè vorrebbe poter contribuire in modo più attivo alla stabilizzazione del debito europeo, vorrebbe contribuire in modo più attivo al processo di crescita, non può farlo per le regole europee, però ha capito che può ritagliarsi degli spazi e dunque rassicurerà Geithner su questo fronte. La Banca Centrale Europea, quando sarà il momento, farà la sua parte. Da Francoforte Geithner va brevemente a Parigi, si incontra con Sarkozy, poi a Marsiglia dove c'è un vertice del Partito Popolare Europeo e lì incontrerà il nuovo premier spagnolo Mariano Rajoy Brey e incontrerà la Merkel. Sarà quello l'incontro più importante, probabilmente Geithner lo sa già, ma Merkel gli dovrebbe confermare che pochi giorni dopo, quando ci sarà l'incontro dei primi ministri a livello europeo, si prenderanno delle misure decisive e si passerà appunto a quell'azione che l'America di Obama attende da tempo. Ricordiamo come Barack Obama a Cannes implorò l'Europa di fare qualche cosa. Una delle aree più famose del Don Giovanni, che aprirà la stagione della Scala mercoledì 7 dicembre, la serata di mercoledì 7 dicembre. Tim Geithner a quel punto arriverà a Milano, ci dicono che verrà alla prima della Scala, adora la musica classica, dovrebbero esserci, oltre al Presidente del Consiglio Mario Monti ad ospitarlo, anche il Ministro per lo Sviluppo Economico Corrado Passera, dunque ci sarà un incontro informale, rilassato e direi soprattutto simbolico, perché l'aria che vi ho fatto sentire la ci daremo la mano, là mi dirai di sì. Beh, la mano stanno cercando di darsela, credo che Geithner rassicurerà Monti. Il progetto che ha messo a punto il nostro Presidente del Consiglio è molto apprezzato dall'America, ci sono alcune riserve sul fronte della crescita, si dovrà fare qualcosa di più, ma Monti rassicurerà Geithner su questo punto. La crescita è nei programmi del governo italiano, ci si occuperà di quello, però soltanto a gennaio. In questo momento era molto più importante rassicurare la Merkel perché appunto potesse dire di sì. Newt Gingrich in grande spolvero, lo ascoltate in una conferenza stampa che ha fatto ieri, sfida Mitt Romney a partecipare a un dibattito a due con lui. Newt Gingrich, ve lo ricordo, è stato presidente della Camera, è un po' un eroe del Partito Repubblicano, una decina d'anni fa, anzi anche qualcuno di più, aveva riportato il partito alla maggioranza sia alla Camera che al Senato con i suoi 10 punti, il famoso decalogo che divenne una sorta di mito. Poi dovette lasciare, si scontrò con Bill Clinton, fece alcuni errori piuttosto gravi e entrò così in una zona di penombra. Oggi si paragona un po' a tutti, si paragona a grandi leader, a Lincoln, a De Gaulle che è stato fuori dalla scena per 11 anni per poi rientrare ed essere acclamato come presidente. Quindi sta vivendo, devo dire, con il ritiro di Herman Cain, un momento di straordinaria popolarità, con una minaccia. La minaccia gli è venuta da Nancy Pelosi, l'ex presidente della Camera, quindi ha avuto lo stesso ruolo che ha avuto Gingrich, però per il Partito Democratico. La Pelosi ha detto di essere stata la guida di una commissione d'inchiesta e che avrà delle rivelazioni molto imbarazzanti da fare su Gingrich. Gingrich si è naturalmente risentito e ha detto che se davvero le farà saranno illegali. Gingrich infine a New York ieri ha avuto un incontro qui all'Hyatt Hotel con esponenti importanti del Partito Repubblicano, un incontro a porte chiuse, e soprattutto si è incontrato con Donald Trump, il grande miliardario americano. Cosa si siano detti nessuno ancora lo sa, ma sappiamo che Trump, e sarà uno spettacolo, modererà il dibattito repubblicano del 27 dicembre gestito da Fox News. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. È confermato, Madonna sarà la cantante nella pausa del Super Bowl 2012, 5 febbraio, Lucas Oil Stadium a Indianapolis. Si esibirà insieme a due artisti del Cirque du Soleil per lanciare il suo nuovo disco di Madonna, American Life. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.